Siete tutti convocati. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Standing in the cold and the frozen wind, I'm leaving you behind, but it's not the end. No, no. No. Ha fatto un vero e proprio capolavoro, raddrizzando un weekend non del tutto difficile, reso difficile da mille fattori. Rossi vince in Catalogna, Rossi c'è. Terrete, eccolo! È rete a rovescio di Murray e Novak Djokovic si prende l'unico slam che gli mancava, il Roland Garros. Vince in rimonta in 4 set, ancora una volta batte in una finale di slam Andy Murray, e adesso ha tutti e quattro i major a casa sua. Dentro la Padula sul sinistro, la Padula! Milano vince anche gara 2 qui al Forum contro la Grissimbon Reggio Emilia, finisce 94-73, 23 punti di Gentile, 14 di Calnietis, 12 di Lafayette, 19 di Sanders e 10 di Simon. Lozano in area, il sinistro dentro, Raul Jimenez e poi di testa Herrera, 3-1 al 90esimo minuto. Forza Suning, Forza to the partnership. Thank you. È tornato, è ricomparso Giorgio Druga, il nostro autore, Gianmarco Ferronati, regia, Federico Bini in redazione. Beh, non possiamo dire che è stato un weekend in cui ci siamo annoiati, anzi tutto il giorno e tutta notte, per chi ha avuto voglia, tempo e bisogno, si è visto da un moto mondiale di cui parleremo ampiamente con grandi ospiti dopo le 15, e quindi già vi do questo appuntamento con la vittoria di Valentino Rossi in Catalunya e mille altri temi. Abbiamo sentito Djokovic che vince il Roland Garros, ultimo slam che gli mancava in una carriera straordinaria, il Pescara che prenota la Serie A 2-0 con il Trapani, l'Olimpia Milano che vince gara 2 della finale Scudetto, ma posso anche dirvi, vi sto per dire il risultato di Golden State Cleveland che si è giocata nella notte, posso dirlo? 110-77, Golden State che asfalta di nuovo LeBron James. Poi sempre nella notte la Coppa America con il Messico che seppellisce l'Uruguay 3-1 e Toir che oggi ufficialmente cede l'Inter al Suning. Mi sembra questa la notizia del giorno, è quella da cui partire. Convoco interisti e non all'800240024, ovviamente Pierluigi Pardo è sempre convocato. Ci siamo, Pierluigi. Come va? Sì, bene. Ci siamo, ora è nero su bianco, ora sappiamo che dopo 21 anni Moratti cede l'Inter, sappiamo che non arriverà più, come molti tifosi interisti ancora immaginavano, su un cavallo bianco con le bisacce piene di petrodollari per tornare proprietario dell'Inter. Sappiamo che Toir rimarrà presidente ad interim perché Suning si è intascata il 68,55% delle quote, 31 rimane a Toir, però la prospettiva è quella di cederle. Beh, mi sembra una notizia importante, per epocale forse per il nostro calcio. Assolutamente sì, è epocale e potenzialmente molto importante per l'Inter, che ha la possibilità veramente, quello che ci racconta Beninazzo, di entrare, di far parte adesso di un grandissimo gruppo molto solido. Bisognerà capire, ovviamente, questo non vale soltanto per gli stranieri, vale per tutti i presidenti e per tutti i gruppi che diventano proprietari di squadre, quello che sarà l'effettivo impegno, quindi la voglia che ci sarà e il focus che verrà dato a questo asset così importante e prestigioso come l'Internazionale Football Club. Però insomma non mi sembra una cattiva notizia, qualche croce, mi sembra una notizia che ribalta gli scenari nerazzurri, che fino a ieri erano scenari di grande fair play, di grande attenzione finanziaria, di qualche problema economico. Oggi mi sembra che insomma ci siano almeno c'è la possibilità che qualcosa di diverso, certo, invece è importante. Dobbiamo anche pensare che anche gli scenari societari cambieranno, perché ovviamente quando arriva un nuovo proprietario vuole guardare dentro la scatola e vuole scegliere i suoi uomini, ma questi sono discorsi che arriveranno. Intanto sta arrivando il traffico, torniamo subito dopo. Tutti convocati. Tutti convocati. Per me è una grande emozione essere qui, è un onore poter rappresentare la mia società in questo importante momento. Siamo una società che ha una bellissima storia, con dei grandi valori, con dei tifosi unici e speciali. Da parte adesso un gruppo come Sunim, molto forte, competente, con grandi ambizioni. Dobbiamo lavorare insieme e fare un grande lavoro. E fare un grande lavoro vuol dire rendere felici i nostri tifosi. L'obiettivo è costruire una squadra forte che sia protagonista in campionato, in Europa League, che possa arrivare fino in fondo e che questo ci permetta di tornare a disputare la Champions League, che è dove l'Inter deve stare sempre. E questo ovviamente è Capitan Xavier Zanetti, che era il rappresentante nerazzurro alla cerimonia di incoronazione del Suning. Ovviamente con noi Pierluigi Pardo, ma c'è anche Tommaso Labate, che sarà diviso oggi tra, per il Corriere della Sera, la computa e il commento delle elezioni e dei pensieri in cinese. Tommy. Buongiorno a tutti, ragazzi. Come va, compagno di chat? Buongiorno, ciao Pier. Detto così sembra erotico, ma in realtà è solo elettorale. Una chat bollente. Senti, un commento elettorale e un commento su Suning. Beh, il commento elettorale... il PD non vince, non convince, e il 5 Stelle diciamo vince almeno momentaneamente e soprattutto convince. Commento invece l'Inter vince con Suning e stravinciamo. Io sono, ragazzi, sono felicissimo, sono al settimo cielo e ho una grande fiducia nei cinesi, e devo dire che per me, come dire, l'ho avverso con una sensazione molto particolare, perché nel momento in cui Tohir, non sono un fan dei capitali esteri, sia chiaro, nel momento in cui Tohir prese l'Inter ero ancora tra quelli che inseguivano la famosa cordata italiana, le interviste di Ernesto Pellegrini sulla Gazzetta, sì. Mentre adesso qualcosa mi dice che c'è da essere felice. Hai sentito l'interista Labate? Ha ragione, anzi è un perfetto exit poll del popolo. Il popolo alla fine vuole, il paese reale alla fine vuole vincere, quindi poi alla fine questo discorso della provenienza geografica del presidente è un discorso che conta pochissimo. Ci devono essere delle attenzioni, sicuramente ne sa qualcosa del Manchester United, Glazer, vi ricorderete la polemica, certo, con i colori dell'antica maglia per protestare, ne sa qualcosa Pallotta in qualche modo, che sappiamo che insomma in qualche circostanza secondo me ha sottovalutato, oppure ha deciso liberamente di fregarsene di certe sensibilità e di certe attenzioni, è peccato nel linguaggio secondo me, nel rapporto con un pezzo di tifoseria, però poi alla fine quello che conta sono i risultati, insomma, se vinci sei un grande, sei un leone, se perdi sei un, non lo posso dire. Indimenticabile la presidenza Tohir, comunque io credo per gli interisti. Certamente indimenticabile la presidenza Moratti, non so se Labate era uno tra quelli che sognava, come ho detto prima, di vedere Moratti tornare con il cavallo bianco e le bisacce piene di quattrini. Ok, sono tornato io, basta con Tohir, basta con i capitali stranieri, torniamo alla vecchia Inter. Moratti ha parlato invece questa mattina, ve lo faccio sentire e poi lo commentiamo. Devo dire che io ho già venduto 3 anni fa, quindi questo è un passaggio definitivo, ma qualche cosa che completa qualche cosa che era già successa 3 anni fa. Soprattutto è interessante vedere quello che inizia qualche cosa con un gruppo che mi sembra sempre contro il presente, ma con un gruppo molto forte che può essere veramente utile alla squadra. Insomma. Io credo che a questo punto loro siano costretti a cominciare ad avere delle loro idee, perché altrimenti si va avanti con troppe idee sul tavolo. E credo che Mancini però in questi passaggi qui, quello che di solitamente è il più tranquillo a rimanere è l'allenatore, perché il passaggio non consente a un nuovo presidente di dover fare delle grandi rivoluzioni, e Mancini merita di rimanere, perché mi sembra che quest'anno abbia fatto una gran fatica per costruire qualche cosa, e vediamo l'anno prossimo quale sarà il risultato. Perde le azioni ma non il vizio di dettare consigli il presidente o l'ex presidente Moratti. Non credo che l'Abate sia uno di quelli cui si è scesa la lacrimuccia nel sentire la voce di Massimo Moratti. Beh, Moratti però, ragazzi, rimarrà sempre nella storia dell'Inter. Sì, io sono della teoria, sono del lodo Michel Platini. Meglio, diciamo, ritirarsi quando si è ancora al massimo della forza e della potenza, che, diciamo, lasciarsi assistere a un declino che è sempre arrestabile. C'è un momento in cui uno può giocare come al casino, come a poker, come nella vita, uno in cui uno può mettere una fish per puntare al jackpot grosso, e c'è un momento in cui questo non può esserci, e quindi secondo me Moratti ha fatto una scelta di grande generosità prima nel ridursi la quota in un socio che era stato individuato, sì, e che si è rivelato rimanendo però sempre molto presente, sbagliato, rimanendo però sempre molto presente in un modo o nell'altro, con le sue dichiarazioni, con io rimango convinto una scelta di Mancini che è stata orientata da Moratti. Assolutamente parlo. Sì, questo non lo nega, però la scelta principale, questo però bisogna fare un po' di chiarezza e un'operazione verità, anche se non a tutti fa piacere, la scelta principale che Moratti ha dovuto fare negli ultimi anni non è stata tanto l'allenatore o il centrocampista buono o l'attaccante, è stata, diciamo, a chi dover lasciare l'eredità. La scelta dell'imprenditore che Moratti aveva individuato in Rictoir, alla luce di tutto questo che abbiamo visto negli ultimi 2 anni e mezzo, si è arrivata una scelta sbagliata. Nel senso che Rictoir è stato bravissimo come imprenditore a monetizzare questa quota di maggioranza e diciamo a guadagnarci, quantomeno non a perdersi, mentre invece non era lui il cavaliere bianco, il salvatore della patria. Moratti è stato un pessimo kingmaker da questo punto di vista. Resta come il nome della storia di una famiglia e di un presidente che ha vinto, diciamo, la media di un trofeo l'anno e che ci ha fatto fare delle finali di Champions, diciamo, in passerella, in carrozza, sul tappeto rosso, quando altre squadre, vedi la Juventus, sono arrivate e sono uscite come sono uscite. Pierluigi, a me ha sorpreso molto, non so a te, anche la rapidità di questa trattativa, perché l'accessione a Moratti, a Tohir, era stata un lungo travaglio. Non parliamo di Milan, perché sennò i milanisti ci inondano di lacrime, giustamente, però la rapidità e la precisione di questa trattativa a me ha sorpreso. Sì, ma infatti io devo dire la verità, non sono completamente d'accordo con la base a proposito di Tohir, nel senso che certamente Tohir non rimarrà nella storia dell'Inter come un presidente indimenticabile, tutt'altro, però insomma di fatto la sua presidenza in qualche modo ha contribuito in forme e modi che magari Benignazio conosce meglio di noi e che ci spiegherà, però ha un profilo internazionale della società, un'appetibilità internazionale della società che adesso prende una proprietà nuova. Quindi insomma la sensazione ad oggi Tohir sembra veramente un pontiere, un uomo che ha in qualche modo gestito la società e l'ha trasformata in uno straordinario e romantico oggetto di amore ambrosiano da parte della famiglia Moratti in qualcosa di appetibile dal punto di vista internazionale, soprattutto sul mercato asiatico. Quindi io questo secondo me non va sottovalutato, fermo tanto che poi ovviamente il tempo ci dirà se questa gestione di Suning sarà vincente oppure no. Sì. Certamente Tohir non è stato Abramovic per l'Inter, su questo non ci sono dubbi, però ecco, probabilmente è stata una transizione necessaria, perché 3 anni fa Suning non c'era, e quindi alla fine secondo me non è tutto da buttare via. E poi insomma secondo me non era neanche facile, onestamente. Non era facile, però insomma i dati dicono che praticamente Tohir ha ipotecato l'Inter, si è fatto prestare quattrini, ha lui stesso prestato quattrini all'Inter con un tasso di interesse molto elevato. Adesso vediamo. Sono d'accordo. Esatto, vediamo quale fine faranno questi quattrini. non è stata una gestione molto romantica, non è nemmeno stata una gestione vincente. Io credo che appunto i tifosi dell'Inter ricorderanno questa proprietà come una fase di passaggio. Santo, provincia di Genova, così faccio rispondere a Tommaso Labate che poi saluto e lascio ai conteggi elettorali. Santo, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Appena sentito, i tifosi dell'Inter saranno soddisfatti dei cinesi, se ho capito bene. Eh beh, io credo di sì. Ne hanno tutte le ragioni. Dalla nascita, io avrei preso... Guardi, lo dico, io morirò interista, però ora... Non lo so, ti farò Atalanta per attaccamento alla maglia. Ma come si può vendere una società con tanto blasone ai cinesi? Vabbè, per fare che cosa? Beh, ma mi perdoni, viene venduta una società con tanto blasone a un grande gruppo imprenditoriale internazionale. Adesso non facciamo questione di... Manchester United non ha blasone, il Chelsea non ha blasone. Ma certo. Io lo dico provocatoriamente. Il Paris Saint-Germain? Il blasone se l'è acquistato negli ultimi anni. E anche il Manchester City ce n'ha un po' meno. Però io quello che voglio dire è che è chiaro che siamo tutti romantici, no? Ci piace a tutti ripensare agli anni Ottanta, alle magliette di lana, alle maglie senza nome, ma soltanto col numero da 1 a 11 e tutte quelle cose. Ma siamo diventati vecchi, siamo venuti capelli bianchi. E pure la barba, quindi appunto, sono un po' cambiati i tempi. Non si gioca più a calcio tutte le domeniche alle 2:30 e poi nostalgici ci saranno sempre. Tommaso, a te l'ultima battuta. Beh, io capisco perfettamente che quando, come dire, c'è un'acquisizione del genere, il tifoso possa avere paura, perché è la nostra, diciamo, ancestrale paura di quello che è diverso rispetto a quello che è lontano. Però, ragazzi, al momento dei primi acquisti, se ci saranno, magari non quest'anno, magari nella sessione di mercato dopo, perché c'è il fair play finanziario, eccetera, eccetera, se il gruppo merita e mette il ficcione sul tavolo verde, saremo tutti più felici. Come dire, meglio un Cristiano Ronaldo comprato dalla Suning che Angelo Colombo, con grandissimo rispetto di Angelo Colombo, preso, diciamo, dalla cordata del macellaio sotto casa. Sì, poi Angelo Colombo ha vinto quello che ha vinto. Angelo Colombo, eccetera, eccetera. Ricordiamo, l'ho citato una casa, ha vinto più titoli, ricordiamo, più titoli, più trofei di Maradona. E se dopo lo saluto. Ciao Tommaso. Di oggi, l'unico vero rischio è non cambiare. Chiaro, rimanere immobili. E questo è il rischio del cambiamento, del buio. È il rischio oggi... che sentono così forti i tifosi del Milan. Fermiamoci un attimo per la borsa. Saluto Tommaso Labate, 800240024 è il numero verde. Vi aspettiamo subito dopo. Tra poco seguiremo tutto. Prima però, spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... Che dire? Arrieccici. Tutti convocati. Torniamo con Pierluigi Pardo e soprattutto per parlare con gli ascoltatori che si sono prenotati. Tutti convocati. 800240024. Buongiorno Luca. Buongiorno a voi, grazie per avermi convocato. Grazie a lei, dica. Io ci tenevo a rispondere, non so se sarò tra i tifosi interisti pochi probabilmente che apprezzano questa soluzione Suning, e credo che Toir sia stato la porta per ottenere questa opportunità, e credo che le società, diciamo, in palese difficoltà dovrebbero cercare queste soluzioni, perché all'interno nostro sicuramente io non ce l'ho con Berlusconi, ma sicuramente il Milan dovrebbe cedere alle richieste dei cinesi che la vogliono acquistare. Non so cosa ne pensate voi, però io ritengo che sia stato molto importante Toir, perché se non altro ha aperto questa opportunità. Ha aperto il mercato orientale, quello che prima stava dicendo Pierluigi Pardo, insomma, ha aperto questa via verso l'Oriente. Con una certa credibilità, ripeto, non è stato un presidente dal punto di vista sportivo indimenticabile, però magari questo merito possiamo riconoscerglielo, dicevamo. Pardo, ci sei? No, non lo sento però Carmine da Milano. Buongiorno Carmine. Buongiorno, buongiorno. Mi fa piacere che il radioascoltatore precedente abbia in qualche modo sostanziato esattamente ciò che pensavo anch'io. Io però vorrei spingere un po' più in là il discorso. Non sono un tecnico di calcio, mi occupo molto più di finanza, però se posso è un'illazione assolutamente mia. Per i tempi con i quali questa operazione si è svolta, per l'atteggiamento delle parti coinvolte, dichiarazioni del dottor Moratti incluse, io ho la sensazione che Suning erano già pronti e non da poco. Quello che sto dicendo è che ho la sensazione che potesse esserci in qualche modo del tutto legale e del tutto funzionale, una sorta di preaccordo tra l'attuale presidenza e il gruppo che poi è subentrato, perché queste cose non avvengono in, sì, appunto, in tre mesi e non c'è, guardi, nulla di male, ma ritengo che sia in realtà un'attività che darà i suoi frutti in futuro. E a Tohir bisogna dare atto del fatto che ha avuto il coraggio di metterci la faccia e i soldi, e purtroppo imprenditoria italiana non ce n'è. E qui lascio l'ultima considerazione a lei e ai suoi graditi ospiti, e la ringrazio, non l'ho fatto in apertura del mio collegamento. Il vero punto debole che io vedo nello sport in generale, in Italia non solo nel calcio, ma forse il calcio è la punta di diamante di questo fenomeno, è la totale o quasi totale assenza di una classe dirigente manageriale. Purtroppo noi abbiamo pochi managers dello sport, sì, e quella è una figura chiave. Vero, per vero, sviluppare. Vero, concordo su quanto ha detto, ce ne siamo accorti per tempo. Si è aggiunto il fatto che c'è una classe dirigente che ha comunque finito i quattrini e ha finito un certo tipo di gestione paternalistica dei club, perché oggi lo sport non funziona più così. Marco Nosotti da Sky, ciao! Ciao, saluto a tutti, buona giornata a tutti. Dove sei? In questo momento sono in un angolo bellissimo di Verona e come sempre sono un uomo da marciapiede, sono su un marciapiede aspettando che esca il presidente Tavecchio, presidente federale, perché siamo nell'imminenza di Italia-Finlandia, c'è il pranzo ufficiale, andiamo un po' a sfrucolare il presidente Tavecchio, tante cose, non ultimo il direttore tecnico Lippi e il prossimo CT Ventura, ci saranno questi. Fammi un exit poll, visto che tanto oggi sono di moda. Che cosa potrebbe dire oggi Tavecchio? Secondo me aspetta domani, nel senso che ci dirà che domani il Consiglio federale diranno sì a Lippi e a Ventura. Io non credo che le ultime voci, problemi di incompatibilità del ruolo di direttore tecnico Lippi per le parentele, eccetera, il figlio che è impegnato a essere come agente dei giocatori, non credo che questo sia un problema importante. Credo che nella giornata di domani si completerà questo cerchio di un uomo garante del nuovo corso di Club Italia, cioè Lippi, e di un uomo come Ventura che sa insegnare, che sa adattarsi, sa selezionare e che è l'uomo, dovrebbe essere l'uomo fino al mondiale. Direi che a questo punto, una volta risolte anche le elezioni, non so quanto c'entrino, forse un po' c'entrano, dovremmo essere a posto. Sì, hai l'impressione che negli ultimi giorni sia, questa è un'impressione che io ho da lontano, soltanto sì, seguendovi, guardando la televisione, seguendo i vostri commenti, hai l'impressione che sia un po' in crescita la fiducia nei confronti di questa nazionale, al di là dell'amichevole di questa sera? Sì, sai, è vero. La fiducia in crescita da parte degli addetti ai lavori, da parte anche del pubblico, cioè ci saranno 25.000 qui, ed è in crescita, diciamo, anche all'interno del Club Italia stesso. I ragazzi hanno capito che hanno lavorato bene, fisicamente stanno bene, quello che gli ha insegnato Antonio Conte, se lo ritrovano sul campo, oggi ne faranno una prova, ma c'è fiducia, consapevolezza del fatto che non abbiamo uno squadrone, ma se riescono a essere squadra, loro hanno motivazioni forti in questo senso, possono andare avanti. Poi il calcio non è una scienza esatta e quindi poi capiterà tutto, ma hai detto bene, questa sensazione ce l'ho. E ormai poi, dal 17 maggio sì, che sono appresso alle caviglie di sti ragazzi. Sì, e poi c'è De Rossi che comunque con le sue parole è sempre più il grillo parlante di questa nazionale. A proposito, ti sei preparato alle domande e risposte di De Rossi? Vediamo un po', domanda di Rossi ieri. A quanti mondiali ha partecipato Gigi Buffon? Questo è facile. Quanti? Scusa, ho sentito male, ma se sono i mondiali di Buffon sono 5, deve fare il sesto. Proviamo, sentiamo se ha detto giusto. Ne ha fatti 5, se dovesse fare il prossimo è il sesto, e credo che sia l'unico giocatore nella storia, e a farne 5 sono lui e altri 2-3, non lo so. 5, indovinato. Seconda domanda: che lavoro avrebbe fatto Candreva se non avesse fatto il calciatore? Candreva, che lavoro avrebbe fatto se non avesse sfondato nel calcio? Opzioni: avvocato, elettricista, preparatore atletico. Barra 1, 2 o 3? Allora, il primo era l'avvocato, preparatore atletico, e l'altro? L'elettricista. Elettricista. Voti per l'elettricista, sentiamo se hai ragione. Sì. Elettricista. Non gli davo queste doti. Terza e ultima domanda riguarda Didier Rossi, riguarda il CT. Conte, in quale europeo ha segnato il mister un gol rovesciato alla Turchia? Marco Nosotti. Aspetta, che me l'ha detta Conte che aveva fatto gol, ma non me lo ricordo. Scherzavamo, perché gli ho detto: tu sei il vero numero 10 di questa nazionale. Ma se no, 4-8 al massimo, il 7 mi sono meritato, e questo non me la ricordo. Però potrebbe essere 2002. Aspetta, no, andiamo indietro. No, non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Allora facciamo rispondere a De Rossi, poi salutiamo Nosotti. L'europeo nel quale Francesco Totti fece grandi cose, tra cui il cucchiaio, era Belgio-Olanda, perché era 2000, prima era 96, quindi Francesco era troppo giovane. Era l'europeo di Belgio-Olanda nel 2000, penso che fosse quello lì. Quindi De Rossi ha studiato a menadito la storia della nazionale. Infatti il 2000 l'ho buttato lì, ma non ero sicuro. Grazie Marcone. Vi saluto, buon lavoro. Seguiamo questa Italia che è simpatica e oltretutto vuole sorprendere e ne ha ben d'onde. Sì, in crescita di simpatia. Ciao Marco Nosotti, grazie, buon lavoro. Grazie, ci fermiamo per la borsa, il traffico, scusate, dovrebbe essere anche Donato Pardo, ci sono diversi ascoltatori, tutto questo tra un attimo. Tutti convocati. Convocati. Non è la prima volta che accade che comunque le squadre si snaturino per affrontarci, a dimostrazione che forse creiamo qualche problema da un punto di vista tattico. Noi dobbiamo pensare a proseguire per la nostra strada. Ripeto, noi abbiamo un'idea di calcio ben precisa, vogliamo fare calcio, e il fatto che comunque altre grandi squadre, soprattutto grandi squadre, si snaturino per cercare di contrastarci, significa che forse un po' di timore, un po' di rispetto tecnico-tattico lo mettiamo, ecco. Questo avrete riconosciuto, il CT Antonio Conte, un discorso che abbiamo fatto prima, ci avviciniamo agli europei. Questa Italia ogni giorno che passa ci rimanda, almeno questa sensazione condivisa da Marco Nosotti, un po' più di fiducia. Tanto sto leggendo diversi messaggi anche curiosi, se vogliamo, sull'altra notizia, cioè quella della cessione dell'Inter. Sentite questo di Franco da Mantova: ho 55 anni, con l'addio di Moratti termina dopo mezzo secolo la mia militanza di tifoso, non mi piego al business di una squadra cinese. Segno dei tempi, Franco. Vedremo tra un po'. Per Luigi Pardo sei? Sì, vediamo la sera di Inter Milan se Franco Damanzi sarà così, no? Ma magari anche prima, vediamo nell'estate del mercato. No, ma attenzione, non è che lo dico con, per carità, con malizia, non lo dici con malizia. Il tifo è la cosa più bella ed è sano, sono anticorpi belli, positivi, ricevere messaggi come questi, perché ci ricordano che il calcio è qualcosa di completamente diverso da tutto il resto. Quindi è una cosa a metà fra industria e religione, è certamente religione nel quale i tifosi, quindi non c'è da discutere, sono messaggi di getto. Quello che credo però è che poi alla fine i risultati e le emozioni che il calcio ti fa vivere, soprattutto quando vinci e quando competi a certi livelli, possono ripagare. Mi ricordo la polemica, forse i primi furono i tifosi della Lazio, vi ricordate, con Cragnotti, no? Negli anni di Cragnotti c'era tutta la polemica sul consumatore. Il tifoso cliente certamente non era un'espressione, un'etichetta troppo felice, le trasferte, però la Lazio vinceva. Oggi, se andate dai tifosi della Lazio, Cragnotti lo ricordano come, no, come uno che fa di vincere. Insomma, non esiste soltanto il risultato, e questo è importante e positivo. Esiste l'attaccamento per la maglia, esistono certi valori, e sarà importante anche da parte della società cinese rispettare il rispetto delle tradizioni, ma certamente. Ma poi vedremo, ti ripeto, quali saranno gli uomini delegati dalla nuova proprietà a guidare l'Inter, perché anche questo sarà molto importante. Enrico da Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Dica. Una premessa veloce. È lo Stato cinese che ha deciso di investire nella società Inter. Secondo me questa è una cosa diversa dal solito, molto importante. E secondo me anche il nuovo sindaco di Milano dovrebbe aggiungersi alla cordata per portare capitali cinesi a Milano, perché comunque sono importanti i soldi, loro li hanno fatti qui in Europa e adesso ce li stanno riportando, speriamo. Questo è un discorso parapolitico, parasociologico a cui non so unirmi. Certamente io so che questo gruppo porterà diversi quattrini, porterà tanti quattrini nelle casse dell'Inter, poi quanto al resto vediamo. Che ci piaccia o no, noi italiani secondo me saremo costretti, e dovremo anche forse farcelo piacere, di vendere pezzi della nostra storia, della nostra sovranità, della nostra bellezza a gente che viene da fuori. Quello che vediamo banalmente nelle vie del centro di Milano, del quadrilatero pieno di russi che vengono a comprare le nostre grip, è quello che vediamo quando qualche anno fa si parlò addirittura del progetto di una squadra, di un progetto straniero per il Cagliari, o comunque per una squadra della Sardegna legata alla Costa Smeralda, effettivamente uno dei posti più famosi al mondo per un certo tipo di turismo. E questi siamo, queste sono le nostre bellezze. Investire nel turismo, investire nelle cose belle che abbiamo. Tra queste cose belle c'è la tradizione di certi club storici del calcio italiano, e che Dio ci mandi buona. Poi scommetto che tra un po' si ricomincerà a parlare di stadi e di possibilità di un nuovo stadio oppure del rifacimento di San Siro, e lì finiremo per incartarci almeno un pochino. Vediamo quali idee hanno queste, quali idee ha questa nuova proprietà cinese. Lale Verona, buongiorno. Poi c'è Davide, poi salutiamo Pardo. Buongiorno Lale. E poi parliamo, ve lo anticipo già, dopo il GR, ampissima pagina sul moto mondiale di ieri, sulla vittoria di Valentino Rossi, con un sacco di retroscena. Lale, buongiorno. Sì, buongiorno. Io devio un po' discorso sul tennis. Sì. Sarebbe scontato che io parlassi di Djokovic, ma non è quella cosa che volevo dirvi. Non so se siete al corrente, ma a Roland Garros, alla categoria juniore delle ragazze, nel doppio ha vinto una ragazza di cognome Danilovic. Uh-huh. Avete presente quel cognome? Ce l'ho presente, sì. Ce l'ho presente. Nome Sasha. È la sua figlia. Lo so. Vabbè, geni di famiglia, Sasha Danilovic è stato un enorme giocatore del nostro, anche del nostro basket, e i geni sono quelli. Volevo ricordare l'ultimo minuto di quel derby, però significa l'ultimo, cioè quello e del canestro da 4 punti. Vabbè, Sasha Danilovic ha fatto quello e molto altro. Io ricordo anche gli inchini ai quattro lati della curva dopo una Coppa dei Campioni alzata, e negli ultimi anni non ne abbiamo vinte moltissime. Davide, buongiorno. Salve, io volevo intervenire a proposito della finale del Roland Garros, quindi volevo salutare la vittoria di Djokovic e appunto considerare questo, che la differenza tra Djokovic, dal mio punto di vista, è un altro, magari Federer, è proprio questa, e Djokovic si è trovato ad essere in vantaggio su tutti, tranne magari qualche periodo di flessione, in un'epoca in cui molti altri tennisti erano, in un'epoca in cui di grandi tennisti come Murray e Federer stesso, abbiamo detto Nadal, quindi la differenza è stata proprio in questo, è riuscito a dominare comunque su tutti. Quindi questo secondo me è in un'epoca in cui i campioni non sono certo mancati. Sì, però possiamo anche andare un po' indietro e ricordare che pure negli anni 80, 90, 2000 non è che ci fosse una gran penuria di tennisti. Come facciamo a dimenticare i duelli Borg Connors e poi Edberg, e poi insomma è chiaro che è un'epoca in cui Djokovic si è dovuto confrontare con grandi giocatori, ma non è che quelli prima si siano tirati le palline addosso. Tu, tra l'altro, tu sei stato poco fa Pierluigi Pardo nel parterre de roi di Roma, degli internazionali di Roma tornati grandissimi. Boh, sì, c'è stato, ve lo dico io perché lo so, adesso non lo sentiamo più. Allora facciamo così, ci fermiamo per il GR. Vi ricordo il numero verde che è 800 24 00 24, messaggi sia SMS che WhatsApp 349 238 6666. Vi invito a prenotarvi e ad intervenire perché appunto subito dopo il giornale radio è già qui il mio amico Roberto Ungaro, la nostra voice per quanto riguarda il motomondiale. Avremo grandi ospiti, rianalizzeremo questo weekend di Barcellona che era iniziato con un grande dolore, cioè la scomparsa di Salom, grande talento spagnolo di 24 anni, ed è finito con la gioia di Valentino Rossi sul podio e quella mano allungata in maniera, secondo me, anche un po' beffarda a Marc Marquez, che non ha potuto far altro che afferrarla e stringerla. Forse è stata insomma un'altra vittoria, un'altra piccola vittoria di Valentino Rossi. Fermiamoci un attimo per il giornale radio e poi parliamo di tutto questo. Vi aspetto. E l'arbitro fischia la fine dei tempi regolamentari, si va ai supplementari. La partita si allunga, in molti l'avevano previsto. Tutti convocati. Sono Enrico Ruggeri. Questa settimana storie veramente strane e anche controverse a Il Falco e il Gabbiano. Se un incidente d'auto non ne avesse fermato la corsa, avrebbe potuto diventare una leggenda del mezzo fondo, Steve Prefontaine. Un bravo ragazzo che inventa l'horror all'interno del heavy metal, Alice Cooper. Ha cambiato il mondo della musica, forse in peggio, il signore dei talent, Simon Cowell. Una bellissima attrice che diventa una grande scienziata, Hedy Lamarr. 30 anni prima della favola dell'Leicester, Osvaldo Bagnoli porta il Verona a vincere uno storico scudetto. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, Il Falco e il Gabbiano. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si ricomincia. Tutti convocati. Attenzione all'attacco di Marquez su Rossi, urca miseria. Rettilino con un bel motore, quello della Honda, che consente a Marquez non di andare sta, a frenare. Non ci forte, sta, Valentino! Forte, risponde wow. Valentino Rossi e si rimette primo. Vantaggio! Ce l'ha fatta Marquez, attenzione Rossi all'esterno, gli si porta sotto, super frenatona, moto compostissima, grandissimo sorpasso di Valentino Rossi, grandissimo sorpasso. Anche abbiamo shake the hand, non so come stretti la mano. Tutto l'aspettare. Lo guardava perché abbiamo fatto una bella battaglia, ma dai, non sapeva, no? E dopo ho visto che mi ha guardato e abbiamo stretti la mano, che questo è anche importante per il motociclismo. La stretta di mano che ha sorpreso anche un po' Marc Marquez. Stanotte ho pensato che, visto che facciamo una cosa, no, dove dobbiamo essere tranquilli e concentrati, perché è una cosa bellissima ma è una cosa anche pericolosa, e penso che era la cosa giusta da fare. Beh signori, dopo una weekend e una corsa come quella di ieri al Montmeló, grande pagina dedicata al moto mondiale, a quello che abbiamo visto, un weekend incominciato con la morte che è tornata a far visita al circo, come sapete, con Salom, e che si è chiuso con una delle gare indimenticabili di Valentino Rossi, con una sua vittoria e con quella stretta di mano che io continuo a interpretare un po' beffarda, ma se volete ne parliamo. Roberto Ungaro, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Dunque, che corsa è stata, Roberto? Strepitoso. Ho ragione nel dire che è stato uno dei capolavori di Valentino Rossi. Sì, è una pagina che rimarrà indelebile scritta, perché partendo ottavo, andando così avanti, subito si è mangiato tutti gli altri, è arrivato lì davanti e ha fatto un'impresa magistrale, davvero imperiale. La guida di Valentino ha resistito agli attacchi di Marquez, ha risposto, due guide differenti, bellissime vederli allo scontro, e Marquez ha mollato, ha visto che non ce n'era, avrebbe rischiato troppo, e Valentino è andato a prendersi quei 25 punti che gli fanno dimenticare il Mugello, che riapre il mondiale e che fa capire che lui, 37 anni, ha ancora la fame dello stagista, perché ci ha fatto veramente vedere che non si accontenta, e questa è la cosa migliore. Senti, abbiamo in linea Massimo Maregalli, primo dei nostri grandi ospiti di S della Yamaha. Ciao Massimo, grazie. Ciao a tutti. Ciao Maio, ciao. Ti lascio all'interrogatorio di Ungaro, sì. Temutissimo. Hai detto tutto, Ali. Temutissimi gli interrogatori di Ungaro. Maio, allora, da appassionato e per gli appassionati, avete stravolto la moto di Vale tra sabato e domenica. Nello specifico, che cosa avete fatto per renderla così competitiva? Roby, dimmi. Di tutto, perché allora abbiamo iniziato venerdì, prima che il weekend iniziasse, sinceramente io pensavo di avremmo potuto lasciare Barcellona con un'altra doppietta, perché comunque questa è una pista dove noi siamo sempre andati bene. Certo. Poi iniziamo le prove, un sacco di problemi di usura sulla gomma anteriore, inaspettati. Dopodiché quello che è successo, poi le modifiche al circuito, quindi oltre a dover trovare una soluzione per non rovinare le gomme, maggiore agilità per il T4 che era più stop and go. Abbiamo dovuto iniziare a lavorare per dare maggior agilità alla moto, perché la nostra moto è molto performante nei curvoni veloci, perché è molto stabile, ma diventa un po' meno guidabile o forse più pesante da guidare nello stretto. Quindi alzata dietro, chiusa un po' davanti. Sono state fatte tante cose. Fino a sabato sera Valentino, Matteo e Silvano hanno lasciato il box tardi. Più hanno del analizzato solito. Le immagini, i dati, e dopodiché con i giapponesi hanno deciso di provare un setup diverso nel warm-up. Avevo due moto con due setting diversi, una quella diciamo utilizzata nelle qualifiche e una con un assetto, con un bilanciamento diverso. Fatto un ottimo warm up, però avevamo comunque l'incognita delle gomme, perché il warm up l'aveva fatto con delle gomme medie e sapevamo che l'unica scelta per la gara fosse quella dura. Certo. Quindi siamo partiti con quell'incognita, e sinceramente dopo tutto quello che ho visto, l'ultima cosa che mi potevo aspettare era una gara del genere. Certo, ma Maio, Lorenzo non ha fatto questo stravolgimento della moto e poi domenica è andato come abbiamo visto? Diciamo che anche Org per il warm up aveva due moto con due setting diversi, una simile a quella che poi ha utilizzato Vale in gara e l'altra simile a quella delle qualifiche. E cosa ha scelto? È partita con diciamo con la sua la moto convenzionale e ha voluto vedere alla fine il decadimento delle gomme. Ok. Dopodiché si è optato per fare una modifica non così diciamo estrema. Ok. Rispetto a quella di Vale, per dire una via di mezzo, e purtroppo non ha pagato come. Perché lui ha calato e da nessuna parte nessuno ha detto come mai ha calato così tanto. Si pensa alle gomme, però in realtà la moto non era a posto. Lui si lamentava del grip al posteriore, e poi comunque la gomma davanti dopo sei giri era già aveva già una linea scura e il punto di frenata era sempre lo stesso, ma la velocità di percorrenza delle curve già soffriva. Comunque Maio, a parte i complimenti a te, perché gestire questi due galli nello stesso pollaio è davvero... Ma si gestiscono da soli. Insomma Maio, ascoltami. Da domatori. Io e Carlo Genta, abbiamo fatto una provocazione sabato riguardo al Mugello. Torno un attimo indietro, ma è giusto così, perché solo tu ci puoi dire se è vero o no. Visto che ha rotto nel warm-up, la squadra di Forcada ha capito dov'era il problema, scollinamento, line-out, nei fuorigiri... E non hanno detto nulla invece a Sgalbusera. No, non è così. No, no. perché no, assolutamente. Però hai visto sul dosso come era sempre composto Jorge, come passava stretto e invece lo tagliava come va sempre fatto Valentino, e prendeva più lo scalino dietro, si alleggeriva molto di più e quindi andava più in fuorigiri rispetto alla moto che rimaneva molto composta di Jorge. Lì bastava pelare un attimino il freno dietro sapendo che il problema era lì e la cosa si evitava, quel fuorigiri, no? No. Oh, no, bene. No, perché comunque quando la ruota si staccava da terra, dimmi, in sesta piena il limitatore entrava sempre. Certo, ma il problema era non farla staccare, con l'altro. Visto che si era rotto il warm up, magari aveva capito la squadra di Jorge. No, il problema ci sono accorti veramente in Giappone, perché il setting del limitatore che funzionava perfettamente con il nostro software lo scorso anno, con quello è stato nuovo, fatto un copia e incolla, ma con il software nuovo purtroppo si sono accorti che andava modificato perché per delle tempistiche. Certo. La pista del Mugello è l'unica pista dove crea queste situazioni e purtroppo abbiamo pagato in gara. Non è una cosa solita per i giapponesi. Ma infatti, Maio, tu che sei dentro e conosci bene, è saltata qualche testa? In Giappone, dico. No. Quella del motore di Vale. La testa del motore di Vale. Grazie mille, complimenti Massimo. Ancora, perché sei da grande manetta qual eri, sei diventato un grandissimo politico e manager, e riesci a gestire questa situazione. Maio, in bocca al lupo. Ciao Massimo, grazie, ciao, buon lavoro. Grazie, ciao. Noi parliamo con gli ascoltatori che sono tanti. 800 24 00 24 è il numero verde, noi ci teniamo magari le nostre idee, ovviamente. Menegalli fa il suo lavoro. Giustissimo. Andrea, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, bravissimi. Grazie, dica. Volevo dire, nonostante l'arrabbiatura dell'anno scorso per il comportamento di Marquez, che mi è piaciuto il suo passo indietro nei confronti di Vale. Onore a Vale che ha vinto una gara bellissima ieri. Cosa intende per passo indietro? Quelle dichiarazioni, la stretta di mano, eccetera? Secondo me sì, ha fatto un passo indietro. L'ho letta così, magari è un'impressione, magari... Io, la mia intuizione è che Valentino lo abbia spinto un po' indietro e quella mano lanciata, al di là poi delle dichiarazioni che sono seguite, tutte zucchero e miele, sia stata un po' provocatoria, ma questa è soltanto una mia idea perché io sono malizioso. Si sono cercati con gli occhi e quando lo sguardo si è incontrato in quella situazione dove era successo qualcosa di troppo grosso il giorno prima, è stata la cosa giusta da fare. Carlo, hai ragione però che l'ascia è stata temporaneamente appoggiata al suolo, ma rimane molto affilata tra i due, cioè non è cambiato molto, la guerra sportiva tra i due c'è, rimane, e aspettiamoci delle nuove puntate sperando di seppellire quello dell'anno scorso, però non è cambiato nulla, vedrai. Francesco. Sì, buongiorno. Dica. Grazie per la convocazione. A lei. Allora, ovviamente ci sono mille argomenti per il motomondiale, quindi ne vorrei scegliere uno. Mille sono tanti, proviamo con uno. Sì, intanto volevo sapere se era il fratello di Valentino che corre con la Yamaha quest'anno, perché sembra che abbia 15 anni in meno. È più giovane degli spagnoli. Comunque, a parte gli scherzi. Di Iannone volevo chiedere, ma ha bisogno di uno psicologo questo ragazzo? Di Iannone parliamo tra poco. Ecco, quanto al resto, Francesco, come ha detto prima Roberto Ungaro, sembra che abbia lo spirito di uno stegista Valentino Rossi. Ha la fame, il desiderio, la curiosità di uno stegista, nonostante abbia 37 anni. È questo che deve essere preso a esempio. Non molla, ci crede e ci ha insegnato la sua guida di ieri, ancora una volta. Noi pensiamo, Valentino, di conoscerlo in tutte le sue sfumature, perché ha vinto talmente tanto in tutti i modi, e invece no, è questo che a me spaventa. Ieri come ha chiuso la traiettoria, ha fatto in modo che Marquez non potesse disturbarlo più di tanto, come staccava, come era composto, e vederlo di fianco sembrava il vecchio stile nel confronto al nuovo, ma non ha ceduto, è rimasto nel suo stile, molto efficace, anzi più efficace, e alla fine è andato a vincere. Esempio incredibile, campionato riaperto. C'è chi ti vuole commentare il moto mondiale con Bobbiese, scrive Max da Vigevano. C'è chi scrive, salve, ma volevo sapere se Ungaro è lo stesso Ungaro che correva nell'enduro Desio negli anni 80. sì, esattamente. È lo stesso Ungaro, caro Piero da Milano. Carlo, buongiorno. Carlo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Buona, grazie. ringraziarvi per la disposizione e complimenti a tutti. Volevo innanzitutto un pensiero alla famiglia Salon, perché quello che è stato veramente triste per tutti. Senta, ma ho al telefono Di Pardo o al viva voce? Ho il viva voce, lo stacco. Grazie, perché sennò davvero non sentiamo. Pronto? Eccomi. Meglio. Eccomi. Stavo dicendo, le condoglianze alla famiglia Salon, ovviamente per quello che è successo, un pensiero al ragazzo perché è una cosa tristissima. E su Valentino, io penso che quest'anno un Valentino così forte non si sia visto da ormai parecchi anni. Penso che sia al punto più top della sua carriera. Quest'anno e l'anno prossimo potrebbe veramente fare la differenza. Il peccato purtroppo è il Mugello. Mi auguro che i prossimi Gran Premi possano essere tutti e tre lì e che Vale nelle prove riesca sempre a partire almeno tra la prima e la seconda fila. Farà divertire tutto l'anno. L'anno scorso eravamo convinti che Valentino Rossi avesse toccato lo zenith della sua carriera e quest'anno siamo tornati qui a fare gli stessi discorsi. Carlo, hai ragione, e dopo la fuga che ha fatto a Jerez, dopo questa vittoria, io mi rimangio quando ho detto l'anno scorso era una condizione pazzesca e quest'anno no. Forse quest'anno, col senno di poi, è davvero il miglior Valentino, questo c'è da dirlo. Riguardo la famiglia Salom, permettimi Carlo, è stata la fotografia di quello che è questo sport. Hanno chiesto alla mamma e la mamma ha detto, lui avrebbe voluto correre, voi dovete correre perché siete felici quando correte, sono cose che capitano. Poi vogliamo parlare della pista, quella è una pista da Formula 1 con spazi di fuga asfaltati che non sono adatti alle moto. Noi siamo di Serie B, corriamo nelle piste di Serie A. Queste cose bisognava pensarci prima, mettere della ghiaia, perché la moto nella ghiaia si ferma. E invece sull'asfalto schizza via come un proiettile. La macchina deve poter uscire dalla pista, ha quattro ruote, e l'aerodinamica, e rientra in gara. Se va nella ghiaia è finita lì la gara della Formula 1. Certo. Questo è se vogliamo parlare di quello. Chiudiamo la parentesi. E riguardo Vale è già migliorato molto, perché in prova è nettamente più veloce, subito più veloce rispetto all'anno scorso. Deve ancora fare qualcosina, però è migliorato molto. Sai che abbiamo in linea? Chi? Carletto Pernat. Buongiorno Carlo. Oh, ciao ragazzi, tutto bene? Qua da Barcellona, tra l'altro. Ciao Carlo. Barcellona. È già perché c'erano le prove, Honda doveva trovare i cavalli nel cilindro, che però ieri si sono visti, ma mi sa che è la Yamaha che ha calato un po', perché la Honda era sempre quella di prima, o no? Sì, ma guarda, oggi stanno provando degli scarichi nuovi, un telaio nuovo, quindi sai, ma devono lavorare, perché la differenza la fa Marquez, è inutile stare a dire come stanno le cose. È stata una gara ieri fantastica, perché ragazzi, io Valentino, ma io ho sentito un po' di telefonate, l'ho sentito e io penso che francamente, confermo anch'io, sia la migliore stagione di Valentino, perché guarda, la differenza è una: l'anno scorso Valentino ha fondato la sua stagione sulla regolarità, se vi ricordate non ha mai fatto uno zero, ne l'ha fatto alla fine quando successe il problema, quando partì ultimo, insomma tutti quei casini che succedettero. E se vi ricordate bene, era sempre sul podio, un quarto, ha fatto anche dei quinti, insomma, ha fatto tutto sulla regolarità, anche perché sapeva che effettivamente in quel momento magari Marquez e Lorenzo, data l'età e dato un altro insieme di cose, potessero anche un attimino essere più forti. Io quest'anno, ragazzi, la situazione è completamente ribaltata. Valentino sembra un ragazzino di 23 anni, cioè la sua gara d'identità non è quella, sfido chiunque a dire che questo ragazzo ha 37 anni e va per i 38. L'hanno clonato. Cioè, fa delle gare incredibili, cioè questa è una carta d'identità falsificata, deve mandare dei carabinieri, qualcuno. L'abbiamo detto prima, Carlo, ha la fame da stegista con l'esperienza però di un semi-pensionato, incredibile sta cosa. Sì, guarda, io ti dico, io l'ho avuto all'inizio, no? È più o meno lo stesso Valentino che gioca, lui si diverte, questo è il suo mondo, come abbiamo detto l'altra volta, la sua Disneyland, lui si diverte sempre. A volte, ecco, devo dire la verità, io non voglio fare polemiche perché poi le polemiche lasciano il tempo che trovano, però sabato lui e Lorenzo avevano un po', erano scivolati, ne hanno pestata una grossa buccia. Bravissimo. Era molto brutto, anche perché poi, ragazzi, bisogna anche conoscere i regolamenti, al di là di quello che si dichiara. Certo. Quel circuito lì è stato modificato alla curva 9, 10, 12, perché era il circuito della Formula 1 ed era omologato. Tu non potevi in un giorno fare delle curve diverse che non fossero omologate, quindi se neanche conosce neanche poi i regolamenti. E poi ho sentito anche un po' la risposta di Mongolo prima, ha ragione, non siamo penalizzati, però secondo me purtroppo questa disgrazia, una delle poche speriamo, fa capire una cosa, che dove si corre in Formula 1 e in moto, la pista è un compromesso, tra virgolette, perché si guarda il compromesso delle auto, che è diverso, e il compromesso delle moto, che è diverso. Quindi d'ora in poi ci devono sedere la FIA, la FIM, Ecclestone e signora Speletta, per capire di fare circuiti dove effettivamente si facciano solo le moto, solo la Formula 1. Non sarà facile, no, certo, non succederà mai, bravissimo, non succederà mai, però la via da seguire è questa. Sai, il futuro bisogna anche renderlo chiaramente molto più sicuro, anche se devo dire che poi purtroppo succede come il povero Marco Simoncelli che muore nel banca dove è il circuito più sicuro. Non è per essere cinici, ecco, però è l'imponderabile, sì, certo, e l'inevitabile che sta dentro questo sport. Senti Carlo, abbiamo ancora un minuto e mezzo e lo sai che ti tocca la domanda di Ungaro su Iannone, vero? Tu sei lo stato della... lo so che mi tocca, Carletto, sei lo stato dell'arte della gestione sportiva dell'individuo, ma ogni volta vieni messo sempre di più alla prova. Cosa ci dici adesso per salvare Iannone, per discolparlo? Ma guarda, allora, io non difendo l'indifendibile, premetto, per cui non posso difendere il difendibile. Diciamo che questo ragazzo è un talento veramente esagerato. Siamo, come dicevo l'altra volta, dei funghi porcini, della famiglia buona, quelli buoni. C'è. Il problema è che probabilmente lui è nato in un team che era la sua famiglia, dove comandavano loro, dove praticamente non era mai colpa loro, era colpa sempre degli altri. Quando tu comandi un team del tuo, tu non sbagli mai. Quindi è arrivato in MotoGP, l'ho portato un Pramac, che ha incominciato un po' a capire con la Ducati, anche l'anno scorso ha fatto una stagione, se non sbaglio, anche di maturazione bellissima, bravissimo, e quest'anno purtroppo siamo caduti in alcuni errori. Guarda, io ti dico, quello dell'Argentina è stato un disastro totale, perché abbattere il tuo compagno di squadra nell'ultima curva, quando sei secondo e terzo, non ci sta nemmeno se mi danno 1 milione di euro, dico che ci sta, punto. Questa di ieri non è che difendo l'indifendibile, però poi si è saputo, quando siamo andati su a vedere la telemetria di Yamaha che ha avuto una decelerazione di 200 metri perché aveva dei problemi alla gomma, anche se poi ha frenato allo stesso punto Lorenzo. E Iannone, francamente, questa decelerazione non ci è arrivata a capirla, non lo so, sai, quando corri. È chiaro, se non vuoi una risposta, ti dico, gli ho detto 1000 volte, stai lì. Tanti problemi che aveva Lorenzo, a un certo momento, gli ultimi T4, gli stava dietro, retterino lo passava. Certo, perché aveva grossi problemi. Esatto. E si chiude e ancora... sentire che Lorenzo finiva nei primi 10, perché aveva dei grossi problemi. Sì, sì, questo si è visto chiaramente. Bravissimo. Gli si chiude ancora un po' troppo la vena, Carlo. Sì. In questa situazione onestamente difficile in casa Ducati, può essere in qualche maniera comprensibile, anche se non giustificabile. Grazie Carlo Pernat. Carlo, grazie. Ciao, grazie, ci sentiamo presto. Ciao. Io ringrazio Roberto Ungaro, prestissimo. A te Carlo. Ci stiamo divertendo come i matti e contiamo di farlo anche di più dal prossimo giro Assen. Ricordo, finita la tradizione delle corse al sabato in Olanda, si correrà per la prima volta regolarmente la domenica. Avremo tempo di parlarlo. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Bini in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Bellissimo spettacolo di sport. Bravi!